artista che diceva agli italiani. Ma cosa ci fa adesso Nicoletti qua? Ehi, Gianluca, ma perché siamo in replica? No? Ah, vedi che cambia? Ma questa è radio sperimentale, non è radio 24, no, radio sperimentale. La facciamo in questi 30 secondi prima che inizi il programma. L'unico momento. Perché poi dopo entra lo sponsor. E quando entra lo sponsor, esatto. Ecco, eccolo, eccolo, eccolo! Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Bentornati da... Da dove? Non lo so. Da dove arriviamo? Dall'aldilà. Bentornati no. Dall'aldilà. Bene, qui siamo a Chiedo Asilo. No, non so se bisogna dire prima bentornati da K Drago o prima lo sponsor, capito? No, vabbè, essendoci sponsor, Wunderwaffer. No, prima diciamo il nome della trasmissione. Chiedo Asilo, sponsorizzato da Wunderwaffer. Mi mette un po' a disagio questa cosa dello sponsor perché sento che devo in qualche modo inchinarmi, genuflettermi. Non siamo ancora abituati a questo. Comunque parliamone bene, bisogna parlarne bene. No, Wunderwaffer è una merendina. Sì, una merendina. L'ideale per spezzare il pomeriggio in due, prima e dopo, perché dopo stai male. No, perché detto così, hai capito, non bisogna stare attenti. Tu stai male perché non sopporti lo zenzero. C'è lo zenzero, bisogna lo dirlo. So. Ginger, c'è lo zenzero. C'è lo zenzero e quindi qualcuno lo zenzero. Lo so. Sai che lo zenzero... Allora... Però dai, cominciamo con il programma vero e proprio. Ma no, adesso, ma lo zenzero. Ah, ok. Allora, io assumo un'aria del tutto diversa da prima, che stavo facendo pubblicità. Sì. E mi atteggio a Lilly Gruber maschio e anche un po' più giovane. Perché giovane. Insomma, beh, più giovane della Gruber di sicuro, almeno sì. Quello. Allora, sembra che il prossimo Natale sarà il primo in cui Babbo Natale e la Befana verranno perquisiti dai NAS prima di portare i regali ai bambini. Ma come i NAS? I NAS, il nucleo antisofisticazione. Che va nei ristoranti cinesi e trova i topi. Gli stessi, esatto. Sai che con Mario Monti ormai sta cambiando tutto. Anche la tolleranza nei confronti dei due vecchi portaregali subirà modifiche. Ma perché i NAS, scusa? NAS. Ma non bastava anche per Babbo Natale la Befana gli mandavi la finanza a Cortina? No, si tratta di e due... E c'era la Befana, c'era Cortina, la Befana, devi mandargliela a Rovaniemi la finanza. Anche lì potrebbero succedere veramente dei casini con la Finlandia. In effetti però si tratta di due problemi diversi, perché uno è l'evasione fiscale, sì. E su quello non sembra che ci siano sospetti per Babbo Natale e la Befana, mentre quello che interessa i nostri due vecchi amici è lo spaccio di giocattoli fatti con materiale dannoso. Ma come? La Babbo Natale non spaccia materiali dannosi, porta i regali. Sì, anche lui è dovuto, come dire, cambiare fornitori. Prima si riforniva da aziende col marchio CE. Poi però la mancanza cronica di soldi che caratterizza questo periodo lo ha spinto, ahimè, a rifornirsi di giocattoli col marchio CE. Con una E sola che sta per China Exported. Ah, capito? Ah, ma quindi Babbo Natale dovrà. Non so. Ma allora. Non vedo il copione. Cioè, quindi Babbo Natale dovrà vuotare il sacco con i regali dei bambini. Vuotare il sacco, nel senso confessare i suoi diritti, davanti agli agenti del NAS. Sembra di sì. Vuoti il sacco, Babbo Natale. Tutti giocati, perché il 2011 è stato l'anno record per i regali pericolosi in Italia, quindi bisogna correre ai ripari. Ma, sì, ma non è che è facile, Drago, sta roba. Cosa fai? Il blitz dei NAS la notte del 24 dicembre. Pensa a quanti bambini resterebbero senza regali. Perché sono stati sequestrati dai NAS. Ma non sono cattivi, fanno solo il loro dovere. Ma no, ma fanno una rivoluzione i bambini. Vabbè, guarda, meglio un bambino isterico perché è rimasto senza regalo piuttosto di un bambino felice di poter mettere in bocca dei giocattoli velenosi, dai. Io mi immagino già Babbo Natale che protesta contro i NAS e li accusa di fumus persecutionis. A proposito di fumus, ho ribadito gli elementi contenuti nella memoria che ho presentato alla giunta, e cioè che tende a dimostrare l'esistenza di una sorta di fumus persecutionis. Vedi, lui agita lo spettro del fumus persecutionis. Allora ecco che entra in gioco l'avvocato di parte civile. Ma è evidente che la maggioranza ritiene che non vi sia fumus persecutionis. Vabbè, ma fumus persecutionis, qui ci fosse almeno il fumus. Senti, sì. Giochiamo a Super Mario Mont, sì, qua al videogame. Ma non è vero, perché poi sbagli e... guarda, attenzione. Divertente. Allora, pronti? Allora, evitare, mi raccomando, le tasse, evitare le tasse. I sindacati, evitare sì. La Merkel. Giusto. Attenzione, giusto. Però quelli arrivano dappertutto. No, sta bravo, soprattutto sta bravo. Le tasse. Aspetta, vedi che non funziona, che poi c'è il rischio più. Di default. Via! It's me, Mario! Giocare. Andiamo. Vai. Forza. Sì. Su. Crescere. Giù. Per crescere. Giù. Rischio di default. No. Rischio di default. Aiuto! E adesso? Il sindacato. Attenzione. Togliersi. Via. La Svizzera. Quindi? Togliersi. Ah, via. Alla fine, guarda, si perde sempre. Ma se giochi come la roulette. Mario! Ancora? Vabbè. Vai, è una droga, vai. Vai, vai, vai. E ora, bambini, ricreazione. Bambino Alberto. Ehi, c'è mica il cane? No, no. Ma quale cane, scusa? Ok, va bene. Tito. No, è qua, è Tito, no? Ah, ma Tito, cos'hai, paura, scusa, di Tito adesso? No, paura. Adesso un po' sì. Prima no, prima non ce l'avevo. Prima di cosa? Adesso cosa c'è? Il prima e il dopo prima il cane? Della... Ah no, non ve l'avevo ancora detto. Cos'è? No, vi ricordate la pet therapy, no? Sì, sì, sì, la facevi con Pio, il piccione malato. Ecco, marcio. Adesso però è cambiata. Perché il nostro asilo è stato estratto a sorte per sperimentare un nuovo software, no? Software, americano. Software americano. Studiato apposta per insegnare ai bambini come interagire con i cani, no? Software. Il comportamento con i cani. Vabbè, che praticamente fanno vedere sul computer i cani in diverse situazioni. Tipo il cane che mangia e lì c'è la domanda del computer: cosa faresti in questo momento? Il bambino dice: gli metto il dito nella ciotola. E no, ti morde, no? Ah, no, dice, hai sbagliato. Ah, bello, beh, vedi, bellissimo. Come un videogame, impari delle cose. Ma impari delle cose, perché col videogame? Prendi un cane, impari così. Vabbè, ma normalmente, ma sei sempre mal disposto verso le novità. Scusa, no, è il futuro questo. Vabbè, il cane è un casino. Beh, no? Allora, stavo parlando io, Allora, mi fate spiegare. Dai. Sì. Dopo le prove al computer, questa pet therapy rivoluzionaria prevede l'incontro reale bambino-cane, no? Meno male. Lì la prova del 9. Vedi. Quindi a gruppi di 10 ci hanno messi in un'aula con 10 cani, no? Sì. Ognuno il suo cane. Sì. E infuriati uno con l'altro. E noi, quello che avevamo imparato al computer, i gesti che avevamo sperimentato al computer... Dovete farli davvero. Aspettando la reazione del cane, no? Quindi, roba tranquilla. Vedi, è una cosa studiata bene, graduale, sì, prima al computer, poi... Graduale, cioè, sì... Teoricamente tutto deve andare liscio, però c'è stata la variabile indipendente. Vedi? Imprevedibile! Cioè? Ha scombussolato tutto. Allora, appena entrati in aula con i cani, qualche bambino ha cominciato a mostrare segni di nervosismo, no? Vedi. Sai com'è? Un conto è il monitor. Vedi la differenza. Avere davanti un cane veramente, no? C'è la prova, insomma. Per me non fa differenza, però qualche bambino, qualcuno si è paralizzato dalla paura. Altri fin troppo superanti, no? Vedi. Quindi, è casino questa roba qui. Ma è troppo normale, superanti, no? Pensa che casino sarà successo. Ma, scusa, basta ricordarsi i comportamenti che hai sperimentato col videogame. Ma il videogame mica poi, insomma, non succede niente col videogame. E qui questo è il problema. Siccome si è creato un po' di panico, il nervosismo, i bambini hanno cominciato a fare gesti inconsulti, no? Si sono dimenticati di tutto. E quindi qualcuno si è sdraiato tremante e mugolante davanti al cane, no? Come si è sdraiato? Sì, il cane poi sente l'odore della paura, no? Eh beh, certo. Si è imbestialito. L'odore della paura sarà stata la puzza, il bambino se la sarà fatta addosso. Ma no, sentono l'odore della paura, gli ormoni, feromoni, quella roba lì. Ma in quel caso il bambino se l'è fatta anche addosso. Ma il cane si è offeso, no? E come si è offeso? Il cane si è offeso perché il bambino... Si è offeso, sarà il termine giusto. Poi, un altro... Nel videogame c'era anche il caso in cui... Ma non lo so, che ne so io. Addosso davanti al cane, cosa fa il cane? Un altro si è messo a mangiare nella ciotola del cane, no? E si è beccato un morso. Ma è normale. Questo è normale, sì. Un altro si è messo a cavalcato il boxer, capito? Il boxer. E quindi prima l'ha disarcionato, no? Poi l'ha riempito di bava. Vabbè, la bocca. È un disastro. Una psicosi collettiva, non un esperimento. No, avete proprio l'esperimento non doveva essere fatto, perché i comportamenti non si insegnano con le lezioni al computer, ma si insegnano semplicemente prendendo un cane in casa. Sì, però il bambino Alberto, per volta, quello che ci interessa, lui sembra che abbia mantenuto la calma. No, quindi... bravo, racconti. Ecco, non mi piace che lo riconoscete. Sì. Diciamo che sono stato l'ultimo a cedere, no? Ah, perché tutti gli altri ormai erano andati pazzi, presi dalla follia, no? Quindi il mio cane era un bastardino magro, a pelo raso, simpatico, solo che appena quello di fianco a me se l'è fatto addosso, quello dei feromoni, io ho perso la calma, no? Non so, sono andato in confusione, in sbattimento, quindi ero terrorizzato. Quindi per difendermi dal cane, istintivamente gli ho buttato tutto quello che avevo nello zainetto. Avevo 12 budinetti alla panna cotta. Okay. E quindi li hai buttati al cane come la polpetta avvelenata. Ho avuto un gesto di presenza, no? Fortezza di spirito. Quindi, infatti, lui ha divorato tutti i 12 budinetti alla panna cotta. Panna cotta. A un certo punto è cominciato a inarcarsi, no? Tutto teso, tremante, tutto nervoso. E ti voleva saltare addosso, cosa doveva fare? Ho capito. No! ma no, ha avuto un attacco tremendo di diarrea, eh. Ma no, ma che, ma adesso vedi, cos'è? Sì, ma si inventa tutto, secondo me. Se tu cos'è, cos'è successo? Ho vomitato. Ma vabbè, allora vabbè. Se poi... No, ma io non sopporto di vedere quelle robe lì, eh. Mi viene subito il corato. Ma quali cose? Quelle robe lì, cioè... robe come la... Ma no, vabbè, bella pet therapy, cosa stai dicendo? Pet therapy, quello che sarà. Eh sì, anche a me. Ma non era meglio il piccione morto? Ma secondo me sì. Anche proprio da morto. Chiedo asilo at radio24.it. Fate a meno di mandare le mail, tanto non le legge nessuno. Perché ormai c'è Facebook, capito? Sì, sì, sì, è email. Sono preoccupato. Email.